Siamo in collegamento telefonico con Michele, che lavora proprio sulla salute, sui posti di lavoro, che si trova questa mattina a Torino, dove si sta svolgendo il processo più grande d'Europa per quanto riguarda l'amianto e quindi l'Eternit. Raccontaci un po', insomma, quanti siete e come sta andando. Stamattina eravamo tantissimi, in questo momento il processo fermo perché i giudici si sono ritirati in camera di consiglio. Questa mattina la giornata è cominciata con moltissima gente davanti al Tribunale Palazzo di Giustizia di Torino, c'erano molti rappresentanti di associazioni, di comitati, c'erano anche diverse RSU e c'erano anche molte delegazioni straniere. C'era un fortissimo gruppo di minatori francesi con la loro casacca bianca e il casco, c'erano poi lavoratori e comunque familiari delle vittime svizzere della Eternit, c'erano poi i belgi. Praticamente è un processo che è europeo perché la Eternit aveva fabbriche in tutto il mondo e in Europa in modo particolare, non solo in Europa. Il fatto è che gli imputati sono i due padroni miliardari, lo svizzero Schmidheiner e l'altro il barone belga Louis de Cartier, de Martien, e sono accusati questi signori di disastro ambientale doloso e omissione volontaria di contenere i luoghi di lavoro. Sono responsabili di migliaia di morti e la cosa è importante perché finalmente oggi, questo processo è iniziato il 10 dicembre del 2010 e dopo 2 anni e 65 udienze sta arrivando alla conclusione. Voglio ricordare che in questo processo ci sono costituite parte civile, 3.000 costituzioni di parte civile ci sono state. E qui questo processo è importante perché ancora una volta abbiamo visto che i padroni di questa fabbrica hanno tentato di comprarsi l'impunità offrendo soldi alle varie parti civili. Tutti si ricorderanno la storia di Casale Monferrato, del comune, dove i padroni di questa fabbrica hanno offerto 18 milioni di euro al comune di Casale Monferrato per ritirarsi come parte civile. Questo tentativo non è riuscito perché l'opposizione dei cittadini e delle vittime dell'amianto hanno costretto il comune a fare marcia indietro e oggi è ancora parte civile in questo processo. In questo modo il tentativo di comprarsi l'impunità finora a questi signori non è riuscito, anche se loro continuano, anche perché noi pensiamo che la salute e la vita umana non vadano monetizzate e anche se oggi dovesse arrivare, come speriamo, un verdetto di colpevolezza di questi assassini, purtroppo non riporta in vita tutti i lavoratori che sono morti, sarebbe sì un passo avanti, ma non riporta in vita quelli che sono morti. Noi vogliamo però una sentenza che sia esemplare, da monito, speriamo, in modo che altri padroni capiscano che forse gli conviene di più tutelare i lavoratori con misure di sicurezza piuttosto che pagare prezzi poi se li beccano così elevati. Almeno noi su questo confidiamo e oggi siamo qua, adesso siamo in attesa del verdetto, ma una cosa è certa, qualunque sia l'esito, la storia non finisce qua. Prima di tutto perché ci sarà l'appello e poi ci sarà la Cassazione. Secondo motivo, perché ormai anche nell'opinione pubblica si sta consolidando l'idea che le sostanze cancerogene vanno abolite, che le sostanze cancerogene non esiste una soglia sotto le quali non sono pericolose e quindi dobbiamo batterci tutti per il rischio zero. Anche perché le sostanze cancerogene, noi abbiamo visto il caso dell'Eternit, in tutte le fabbriche, prima uccidono gli operai, i lavoratori, poi escono dalle fabbriche, si disperdono nelle falde acquifere, nell'acqua e uccidono anche i cittadini. Quindi è una lotta che è la lotta di tutti, la lotta per la salute in fabbrica e la lotta per la salute nella società. E a che punto siamo, diciamo così, su questo a livello italiano? C'è una sensibilizzazione? C'è stata in questi anni un lavoro di smantellamento dell'Eternit? Viene ancora usato? Quanti, insomma, continuano ad esserci grossi casi? Cosa sta accadendo? Diciamo che mentre è stata fatta una legge nel 92, la legge 257, che metteva fuori legge l'amianto, tra l'altro questa legge, voglio ricordarlo per i vostri ascoltatori, è stata fatta con 9 anni di ritardo, perché voglio ricordare che nel 1983 ci fu una direttiva europea che imponeva agli Stati membri di mettere fuori legge l'amianto. L'Italia e la Germania dopo qualche anno l'hanno fatto, in Italia siamo dovuti arrivare al 92 e dopo tante lotte di lavoratori. Ecco, vuol dire che per 9 anni lo Stato italiano, quando dico lo Stato dico tutti i governi che si sono succeduti, di qualsiasi colore, sono stati complici di datori di lavoro assassini che pur sapendo che l'amianto era cancerogeno non hanno fatto nulla per toglierlo dai processi di produzione, non hanno fatto nulla per impedire queste morti annunciate. Ad oggi, dopo la legge del 92 che ha messo fuori legge l'amianto, ci sono in Italia ancora 32 milioni di tonnellate di amianto sparso nel territorio. E non è solo l'Eternit, ma sono, voglio ricordare che l'amianto è tuttora usato in circa 3.000 prodotti, dalle stufe ai phone che una volta si usavano, alle coibentazioni delle case. Ci sono le case fatte d'amianto non solo a Milano, ma le case popolari di una volta quasi dappertutto, le condotte dell'acqua, i freni e tante altre cose. Quindi diciamo che la lotta contro l'amianto, per lo smaltimento dell'amianto, non è solo una lotta di ieri, è una lotta che è tuttora valida a fare oggi ed è purtroppo una lotta che dovremo fare anche domani, perché il problema della bonifica del territorio da risultanze inquinanti e cancerogene è un problema che ci riguarda tutti. E oggi su questo devo dire che mentre c'è sensibilità dei cittadini, non ce n'è per chi ragiona col portafoglio, per i padroni. Voglio ricordare a tutti che dopo la sentenza della ThyssenKrupp, che ha condannato a 16 anni i dirigenti, il massimo dirigente della fabbrica, non so se vi ricordate, alla prima riunione della Confindustria i padroni si sono alzati in piedi battendo le mani al maggiore assassino, agli assassini, diciamo così, che avevano fatto bruciare vivo 7 operai alla ThyssenKrupp. Questo dà l'idea che mentre per una parte dell'opinione pubblica c'è sensibilità, chi ha interessi economici a non applicare certe misure di sicurezza continua a essere insensibile, perché è più sensibile alla logica del profitto che alla salute umana.